oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Ed eccoci qui di nuovo insieme, di nuovo in diretta su Radio Città Fujiko, i 103.1 per questo mercoledì 13 novembre e alle 13.02 minuti parte l'appuntamento Oltre la crisi. Di là dallo studio abbiamo Francesca Clementoni. Buongiorno Francesca. E buongiorno, e intanto salutiamo anche Francesco Campione, scusate, ce la posso fare oggi. Oggi abbiamo deciso di partire da un argomento molto complicato e molto spinoso. Sì. Però siccome noi non ci tiriamo indietro e ci piacciono le sfide, partiamo da lì. È la notizia, no? La notizia di ieri, appunto, la deputata grillina Emanuela Corda, che nel decennale della strage di Nassiriya, parlando in aula, ha chiesto di commemorare il kamikaze che si fece esplodere uccidendo 19 italiani e dicendo: nessuno ricorda il marocchino che si suicidò per portare a compimento la strage, quando si parla di lui se ne parla solo come di un assassino, ma anch'egli fu vittima oltre che carnefice. E qui apriamo veramente un argomento molto complicato. Innanzitutto un primo commento, Francesco, su questa dichiarazione, in modo da dare un inquadramento diciamo all'argomento, e poi ci addentriamo nei particolari. Ma io, come dire, come commento direi la reazione che io ho avuto quando ho sentito questa notizia, no? Mi sono detto: in realtà pensiamo di vivere nello stesso mondo, ma non viviamo nello stesso mondo tutti. Cioè ho sentito che anche in un momento in cui, come dire, tutti, in un momento di lutto, in un momento di lutto nazionale, di lutto per i morti della patria, no? In cui tutte le nazioni si compattano in quel lutto, c'è una voce discordante, no? Significa che questa comunità ha una patologia. A prescindere da come, cioè, io la prima cosa che ho pensato: oddio, qua ci sono tante cose da mettere a posto. Perché se neanche di fronte al lutto per i morti per la patria tutti siamo uniti, e c'è qualcuno che addirittura dice che dobbiamo celebrare quello che li ha fatti fuori, perché anche lui è una vittima e non solo un carnefice, c'è qualcosa che non va in questa comunità. Cioè c'è qualcosa che non va, e ha a che fare con la crisi. Cioè è una comunità in crisi, è un sintomo, secondo me, grave della crisi di una comunità. Cioè una comunità che non riesce a compattarsi neanche dietro a quello che è, cioè, come dire, è evidente che bisogna commemorare i morti di Nassiriya, no? E che tutti quanti gli italiani sono dispiaciuti per i morti di Nassiriya, e tutte le volte che se arriva l'anniversario tutta la comunità si unisce e combatta, ma non è vero. Ecco, questo è il punto. Ma non è vero, anche perché al di là delle dichiarazioni di quest'anno, diciamo, di questa che abbiamo appena letto, c'è anche un grosso fronte, diciamo, che fa capo al Movimento per la Pace, a chi contesta la guerra, a chi contesta l'Italia implicata in situazioni di guerra, che da tempo non si sente, porta rispetto, ma non si sente di commemorare in maniera ufficiale questa cosa, perché comunque è il risultato di una guerra che, a detta di queste persone, dovevamo evitare. Ed è stata anche di risultato sterile, a parte questa fondamentale affermazione di Francesca che l'Italia ripudia la guerra, che è un articolo della Costituzione, vi è poi anche un risultato estremamente controproducente, perché non mi pare che questo conflitto, chiamiamolo così per usare un termine edulcorato, abbia portato chissà quali risultati per la pace. Quindi quello che volevo dire io è che c'è già una comunità divisa. Sì, a monte. Sì, c'è già una comunità divisa a monte, però quello che mi meraviglia è il fatto che neanche di fronte alla morte dei soldati la comunità si ricompatta. Perché nel momento del lutto anche i pacifisti dicono: poverini, sono morti, stiamo zitti. Sì. Non è il momento. Cioè, beh, quello che mi meraviglia è questo. Il pacifista, ad esempio, in questione, come posso essere io, molto stamattina, tra l'altro, ho letto il commento sulle prime pagine dei giornali e il pacifista, stavo dicendo, potrebbe tranquillamente anche avere d'impatto, di pancia, una reazione del tipo: sì, mi dispiace. Se tutti la pensavano come me, erano ancora insieme ai loro genitori o ai loro figli. Ecco, questo mi sembra un punto importantissimo. Questo mi sembra un punto importantissimo. Cioè, nella una comunità, nel celebrare i morti, in questo caso i soldati che muoiono per una missione che hanno fatto per il loro paese, di qualunque tipo di missione si tratta, si può discutere di questo, ma sono morti, no? Questa comunità pensa più ad evitare la morte dei membri della sua comunità, o in qualche modo, anche se sono morti, li utilizza per compattarsi? C'è una strumentalizzazione, quindi? C'è una strumentalizzazione, direi in positivo. I momenti di lutto collettivo sono i momenti di integrazione di una comunità. Non funzionano più. Ecco, questo okay. è quindi un momento in cui la comunità si riconosce. Il mio punto è questo, non voglio entrare nella questione. Dico soltanto che una comunità che non ha più meccanismi per ricompattarsi e per integrarsi, e non lo può fare neanche di fronte ai soldati morti, è una comunità malata. È una comunità che vive nel conflittuale. Certo, è una comunità che è, appunto, dentro la quale sono venuti meno i momenti per la pacificazione all'interno della comunità. Cioè, infatti, quello che osserviamo è che non è possibile pacificarsi. Difficile. Scusate, intanto io vorrei dare i numeri degli SMS e anche del telefono fisso, perché io e Francesca ricordiamo che questa è una trasmissione a microfoni aperti, per cui 333-1809494 per i vostri SMS, oppure per chiamare in diretta 051 34 64 e 58. Siamo partiti con un discorso che va oltre l'ideologia, che va oltre, diciamo così, le motivazioni, ma c'è un significato che ci prende dentro e fa una disamina della nostra società o della nostra comunità. Si va oltre a qualcosa che deve essere un sentimento che ci deve unificare anche davanti alle più gravi tragedie? Se è così, perché? Mi pare di aver capito che la disamina che sta facendo il professor Campione sia proprio questa, che va oltre, diciamo, uno che vede le cose come posso essere io, che chiaramente arrivo all'estremo dicendo: ok, se non si va là, questa cosa non capitava. Ciò non toglie che mi dispiace tantissimo per le famiglie distrutte, come invece d'altra parte c'è chi si risente perché questo lutto non è sentito abbastanza. Questi sono i due estremi della comunità, possiamo così definirli? Sì, possiamo così definirli. E come dire, il guaio è che non riescono a parlarsi. E si torna a bomba da tutto. E come e si torna all'inizio. Il guaio è quello che la comunità resta divisa. Infatti, tra chi c'è qualcuno, non mi ricordo chi, un politico, che la prima reazione che ha avuto su Twitter è stato, non so chi è, ha detto: mi fanno schifo questi che dicono che è una vittima anche quell'altro. E quegli altri naturalmente hanno rincarato la cioè praticamente, appunto, si conferma che la comunità non si può ricompattare. Ora questo non si può ma è così da sempre, posso permettermelo? No, non è così da sempre. Beh, insomma, non è così da sempre. Allora a parlare. No, non è così da sempre. Cioè, io penso questo, io penso che una comunità che perde anche di fronte al lutto la sua capacità di tornare a un momento di unificazione è una comunità che anche nei momenti in cui non c'è contrasto e lotta è una comunità frammentata. È una comunità cioè, facciamo l'esempio storico più classico: quando è che si esce dalla tragedia della guerra? Quando ci si perdona, quando si va oltre, quando tutti i morti, in qualche modo, cioè la morte in qualche modo rende tutti uguali, rossi, neri, certo, bianchi, verdi, certo, sono tutti uguali. Ora questa possibilità non c'è più. Neanche i morti sono tutti uguali, cioè neanche la morte pareggia il conto. Questo è la mia, come dire, il mio turbamento. Io sono turbatissimo da questa cosa. Vuol dire, da un certo punto di vista lo so, perché da un certo punto di vista viviamo in un'epoca, il mondo della cultura occidentale, che ha completamente lasciato da parte l'aiuto alle persone per superare i lutti. Ci hanno completamente lasciati soli, tutte le ritualità sono andate in crisi, tutte. E allora non è che mi meraviglio, semplicemente quando accade mi preoccupo, penso che viviamo in una comunità senza possibile pace. Ma secondo te quando è iniziata questa cosa, nel senso, quali sono i segnali che hanno cominciato a far emergere questo scollamento comunitario, se posso definirlo così, e anche quali sono, oltre a questo, altri segnali chiave di questa malattia della comunità? Per esempio, cioè io credo che questo non lo so bene quando è cominciato, non lo so bene. Posso indicare qualche indizio che a mio parere... Indizi che ti vengono in mente. Sì, che a mio parere è significativo, e cioè penso che sia quando si è cominciato a pensare che tutto si regola sulla base del calcolo costi-benefici, che non c'è più niente che non sia legato agli interessi di qualcuno, che i rapporti tra le persone sono rapporti mercantili soltanto, no? Che non c'è niente che non si può misurare, non è niente che non ha prezzo. Cioè dal momento in cui tutto è un prezzo, in quel momento tutto diventa legato all'interesse di qualcuno. E per quell'interesse lì si può solo confrontare con altri interessi. Per cui tutte le dinamiche che fanno incontrare le persone su altre basi, sulla base di qualcosa che non ha prezzo, che non si compra e che non si vende, vanno in crisi. Ecco, allora, questo probabilmente è cominciato molto tempo fa. È cominciato quando... per esempio, un indizio è quando invece che... essere, che lavorare per un certo scopo, si lavora per campare. Se uno lavora per campare, è assolutamente inevitabile che nel rapporto con un altro si basi sul suo interesse. Allora, secondo me, comincia tutto da lì. Per cui io metto in relazione questa mancanza di meccanismi di integrazione, la metto in relazione con il fatto che perdono sempre di più di valore i valori assoluti, cioè quello che c'è tra le persone che non si può misurare, che non si può, che non ha prezzo, che non si può scambiare. Nel momento in cui tutto questo perde valore e tutto è scambiabile, tutto è monetizzabile, tutto in quel momento, secondo me, comincia questa deriva. Cioè in quel momento ci si separa, ognuno pensa per sé. Andiamo indietro tanto allora, perché queste caratteristiche ci sono da mo. Prima dicevo così che c'è stato un po', ma da quando? È da un po' che è così che c'è stato un po' di dissenso, visto, dimostratemi il contrario, perché queste caratteristiche sul pianeta Terra ci sono da tanto. Sì, cioè io posso dire che non c'è, riesco neanche a pensare. Posso ammettere, so che c'è chi dice ci sono da sempre. No, ho paura di sì. Non mi rassegno alla seconda parte della frase, e sempre ci saranno. Ah, ok. Ok, certo, pienamente d'accordo. Io però vorrei aggiungere un altro aspetto. Tu prima hai detto davanti alla morte i morti sono tutti uguali. E non è proprio così. Perché voglio allargare anche un po' il discorso, anche per capire quali sono i meccanismi che si muovono in questo senso, ovvero i morti più vicini sono più importanti, o colpiscono di più l'emotività, la, sia collettiva che individuale, piuttosto che quelli lontani. Certo. 10 morti a Bologna hanno un valore completamente diverso da 100.000 nelle Filippine. E gli, semplificata... e gli otto italiani con cui non riusciamo a metterci in contatto sono più importanti degli anonimi 2.500 o 10.000 che sono morti. Esatto. A questo punto purtroppo è tragicamente così. E quindi anche questo è un meccanismo che vorrei un po' indagare con te, come mai avviene? Certo, certo, questo è un aspetto importantissimo. Per esempio nei processi appunto di elaborazione del lutto, quando si affronta la morte di una persona, ci sono due dimensioni, tre dimensioni fondamentalmente da considerare. Una è la dimensione della mancanza. Chi muore ti manca, e naturalmente ti manca chi avevi. Se non ce l'avevi è a Shanghai, non ti manca, non c'è dubbio, no? Poi c'è una dimensione più personale, cioè più che ti manca chi muore, chi muore era una parte di te, perdi una parte di te, non è che ti manca. Ti senti mutilato, ti senti menomato, ti senti diminuito in qualche modo, no? D'accordo? E questo è l'aspetto personale. Poi però c'è un altro aspetto che la nostra cultura non sviluppa e che invece è un aspetto umano. Chi muore è assente, cioè chi muore ti lascia una responsabilità, tocca a te fare qualcosa, quello che faceva lui fino a quel momento, no? Ora, è proprio perché noi trascuriamo questa terza possibilità, che nei confronti di chi è morto, quando è morto, non riusciamo a capire che i morti sono tutti uguali. Perché dal punto di vista delle responsabilità che abbiamo nei confronti di chi non c'è più, i morti sono tutti uguali. Cioè vuol dire che umanamente, quando muore qualcuno, se l'umanità si impoverisce, l'umanità, e tutta l'umanità deve fare qualcosa. Per esempio, come facciamo a sopportare che mentre erano lì che lavoravano, quelli delle Torri Gemelle sono stati distrutti e sono morti? Questo non è che lo possiamo affidare ai parenti, è un compito dell'umanità, non è un compito dei parenti. Cioè il significato di una vita e di una morte non è un significato solo biologico o personale, è anche un significato umano. Ora, nella misura in cui questa dimensione è presente, i morti sono tutti uguali. Cioè, nel senso che non è perché mi manca o perché era una parte di me che io devo elaborare un lutto, non solo per quello. Lo devo elaborare anche per dare un significato alla cosa per gli altri e anche per chi è morto. Te la voglio contestare questa, però dopo un brano musicale, cosa ne pensi, Willy? È già pronto qui per partire The Jazz all the ways, in tutti i modi. A fra poco, e restate sui 103. You see the baby. loving, loving in every way I've been having to be with you. Minuti 333 180 9494 per partecipare a Oltre la crisi, la puntata con Francesca Clementoni dall'altra parte del vetro e soprattutto col professor Francesco Campione. Cara Francesca, come prosegue la nostra? Allora, siamo partiti dalle dichiarazioni della deputata 5 Stelle Emanuela Corda ieri, appunto, durante le commemorazioni per i morti di Nassiriya. Stiamo allargando il discorso sulla comunità, sulla nostra comunità. Francesco diceva una comunità malata che non riesce più a ritrovarsi tutta insieme intorno a un evento luttuoso nazionale, di valenza nazionale comunitaria, appunto. E dopodiché stavamo parlando del fatto che, insomma, i morti sono tutti uguali, non sono tutti uguali. E la contestazione mia, diciamo, l'appunto che volevo fare, la precisazione: tu giustamente hai raccontato le fasi del lutto relative a un lutto, per esempio, personale, quindi una persona conosciuta, cara, eccetera, diverso da quando appunto c'è il lutto di una persona completamente sconosciuta che magari sta a Shanghai. Hai fatto questo esempio, però mi viene questo ulteriore spunto. Quando prima citavi le Torri Gemelle, quando sono saltate in aria le Torri Gemelle per gli aerei e sono morte tante persone, diciamo che la nostra comunità si è sentita molto più stretta nei confronti di queste persone decedute all'attacco delle Torri Gemelle piuttosto che le centinaia di migliaia di persone che sono morte, che sono nella guerra in Afghanistan o in Iraq o anche adesso per il tifone che si è scatenato nelle Filippine. Sono comunque centinaia di migliaia di morti, dei numeri che sono indescrivibili. Però molto spesso rimangono dei numeri detti a caso, che si dica 1000 o che si dica 100.000 vale uguale, e invece c'è una bella differenza tra 1000 vite e 100.000. Eppure, invece, se quelle più, diciamo, occidentali paiono avere un valore più alto, perché? Perché noi, come dire, ci identifichiamo con chi vive o con chi muore, cioè facciamo delle differenze. E le differenze le facciamo in base a che cosa? In base a quello che siamo noi, cioè alla nostra persona, alle nostre caratteristiche, no? Per cui, per esempio, ci immaginiamo, però quando ci immaginiamo un bambino che gira dopo l'alluvione dentro un paese devastato e non incontra nessuno, quel bambino rappresenta tutti noi, chiunque noi siamo. Cioè, tanto è vero che rispetto a quel bambino, chi li aiuta quei bambini ora che si sono salvati e non hanno l'acqua e non hanno il cibo? A chi tocca? Non certo tocca soltanto a quelli che li conoscevano o che per cui quei bambini erano qualcosa, cioè quei bambini, le persone a cui quei bambini mancano, tocca a tutti. Ora, il problema è proprio questo, che prevale nella nostra cultura, prevalgono i meccanismi di identificazione, per cui i morti sono di categoria diversa a seconda di con quale morto ci identifichiamo. In realtà, chiunque sia un morto, una volta che è morto, no, è uguale a tutti gli altri morti, ma perché è morto. E una volta che è morto, il rapporto di noi vivi col morto dovrebbe essere uguale con tutti i morti. Cioè la morte dovrebbe avere quella virtù, per cui forse per questo ce l'hanno messa, che dopo che uno muore cancella tutto quello, tutto il fastidio e tutta la tragedia che ha determinato negli altri. Cioè l'umanità che non è in grado di pareggiare, di rendere uguali tutti i morti, è un'umanità che non sa andare nemmeno con la morte oltre i suoi contrasti. Perché invece considerare che alla fine sono tutti morti, cosa vuol dire? Vuol dire che non serve a niente fare la guerra, perché alla fine sono tutti morti, alla fine hanno perso tutti. Devo dire però che storicamente c'è qualche morte che ha fatto anche piacere. Sì, ma questo però appunto in una comunità, questo si spiega. L'ultimo esempio, Priebke, così tanto per si citarne spiega. Uno, ma insomma. Certo, ma per esempio rispetto a Priebke abbiamo dato prova di grande inciviltà, così come con le Torri Gemelle abbiamo dato prova di grande inciviltà. Abbiamo reagito alle Torri Gemelle, cioè alla violenza, a una violenza subita, facendone altre peggiori di violenze. E abbiamo reagito alla morte di un nazista non riuscendo attraverso la morte del nazista ad andare oltre e a perdonare, ma anche nella morte l'avremmo voluto morto. Scusa, ti interrompo un secondo perché ci stanno chiamando sul cellulare degli sms e non possiamo rispondere. Se volete partecipare telefonandoci, ricordo il numero di telefono 051 34 64 58. Andiamo in pubblicità, piccolo stacco musicale, poi sì, torniamo in e diretta. Poi torniamo qua. Restate con noi, 103.1 di Radio Città Fujiko. Qua. Torniamo insieme, torniamo in diretta a 13.35, oltre la crisi arriva anche un contributo da un ascoltatore di nome Tiziano, noi gli diamo il benvenuto su Radio Città Fujiko. Ciao Tiziano. Ciao a tutti, grazie. Ciao, dici pure. Ciao, tra l'altro ho un ritorno di voce, sarà difficile parlare. Aspetta che, ma noi abbiamo i mezzi per rimediare. Forse. Okay. Adesso come va? Bene, ottimo, fantastico. Ah, visto. Volevo... Niente, volevo fare un appunto su quello che diceva il professore. Se davanti alle vittime siamo, cioè la gente si riconosce nelle vittime, siamo tutti uguali. A volte è così, a volte però ho notato delle differenze. Per esempio, dalle vittime dell'11 settembre, delle Torri Gemelle, non so, almeno per quanto riguarda l'Italia, secondo me ha avuto un obbligo morale di stare più vicino alle vittime, e anche perché, cioè, tipo per esempio io lavoro a medicina in un paese vicino a Bologna, c'è addirittura una rotonda dedicata alle vittime dell'11 settembre, mentre invece per le vittime dell'attentato che per esempio c'è stato a Madrid, se ne, cioè, non è che se ne è stato nessuno, però insomma non c'è stato tutto questo clamore, anche ok, le vittime saranno anche state meno, però sono sempre vittime, e tra l'altro da parte degli stessi attentatori, diciamo, insomma, della stessa matrice. Esatto. Ecco, questa è una domanda interessante, Francesco, molto, perché molto tu prima parlavi di identificazione, allora da parte nostra, allora io mi identifico tanto uguale con un impiegato di New York come con un impiegato o un pendolare di Madrid, e qui qual è il problema? Certo, ma noi però non siamo soli nella nostro, nei nostri processi di identificazione, ci sono anche, cioè se per settimane vieni bombardato da un certo evento e un altro evento invece passa più rapidamente, è chiaro che vieni colpito dal primo evento più che dal secondo evento. Quindi io indicavo semplicemente, non dicevo che non c'è differenza, indicavo semplicemente qual è il processo psicologico, che è quello dell'identificazione. Poi il processo dell'identificazione di ognuno di noi viene influenzato. Per esempio, quelli che avevano la possibilità, perché conoscono le lingue, di collegarsi durante la crisi delle Torri Gemelle con Al Jazeera, no? Avevano un'altra visione della questione, una visione completamente diversa. Io ho, per gioco, a un certo punto l'ho fatto, era un'altra atmosfera, un altro modo di dare la notizia, un altro modo di parlarne, con altre persone, con altre prospettive e così via. È ovvio che se tu, appunto, sei uno che sa solo l'arabo e vede solo Al Jazeera, il processo di identificazione tuo è sempre uguale. Se tu sei un arabo e ce l'hai col mondo occidentale, ti identifichi di più con l'attentatore che con la vittima. Se sei un occidentale, ti identifichi. Però poi questo processo può essere, come dire, influenzato. Viene influenzato dai mass media, dai mezzi di comunicazione di massa, dall'educazione collettiva. Fuori onda chiacchierando, se vi ricordate, io ho citato i media per quanto riguarda l'identificazione in queste cose estreme ed eclatanti. Intanto, se non altro da aggiungere, piuttosto che tenerlo in linea per tutto il palinsesto di Radio Città Fujiko, ringraziandolo infinitamente per aver partecipato ad Oltre la Crisi, ti possiamo congedare, Tiziano, o hai da aggiungere qualcosa? No, non ho niente da aggiungere. Grazie mille. Ah, forse sì, forse prego, appunto prego, pensavo magari ci sentiamo magari anche più vicini moralmente, diciamo, almeno qualcuno si è sentito, perché forse siamo alleati tra virgolette tra l'Italia, certo, e l'America, certo. Può c'entrare qualcosa? Sì, c'entra qualcosa, ma io faccio notare per esempio che ci sono tante persone appartenenti a certe aree più di sinistra che di destra, no? Che quando hanno sentito che la maggior parte dei morti delle Torri Gemelle erano morti delle grandi finanziarie internazionali, no? Hanno cambiato un po' idea, si sono identificati un po' meno. Non so, questo è opinabile. Comunque. No, io ho sentito delle persone certo. Dire, però bisogna vedere chi c'era lì. Perché, certo. Però bisogna vedere chi c'era lì, certo. Poi naturalmente tutti si identificano col pompiere che invece che scendere le scale le ha salite ed è morto, tutti si identificano col pompiere, sì, non perché c'è il gesto umano perché c'è il gesto umano che va oltre che fa apparire la dimensione umana della situazione, certo. Caro Tiziano, ho capito, grazie tanto, ciao Tiziano, ciao. Ebbene, siamo arrivati al pompiere. Sì, siamo arrivati al pompiere. Ecco, ci sono queste figure che spesso appaiono, in questo caso erano i pompieri, in altro caso mi viene in mente il naufragio di Lampedusa, erano le forze dell'ordine che comunque hanno finanza e capitaneria di porto che hanno aiutato a far annegare meno persone, diciamo così. Alle volte sono anche esseri umani che si trovano su una spiaggia e stanno per vedere annegare qualcuno. Questa cosa invece crea una sorta di, passami il termine, orgoglio comunitario, neanche nazionale, voglio dire orgoglio proprio di comunità. Perché allora lì cosa parte? Un meccanismo di identificazione col buono? Sì, certo, certo. Quello, per esempio, è un meccanismo, mentre non funzionano più i meccanismi di integrazione di una comunità che riguardano il lutto, per cui i morti non sono tutti uguali, funzionano ancora i meccanismi di integrazione che si determinano quando bisogna aiutare le persone. Quelli funzionano ancora, per fortuna. Cioè, secondo me, la speranza nel futuro sta in quello, nel fatto che di qualunque colore siano le persone, non è che ci siamo chiesti, per esempio, a quale cultura e quale ideologia appartenevano quelli di Lampedusa che stavano pescando e appena hanno visto che qualcuno annegava si sono prestati e hanno poi protestato perché non gliel'hanno permesso di salvarli tutti perché dovevano aspettare la guardia costiera. Non ci siamo chiesti chi erano questi. Immediatamente ci siamo identificati con loro. Perché c'è un aspetto dell'umanità e che aiutare gli altri senza chiedersi niente, cioè in modo disinteressato, certe volte mettendo anche a repentaglio la propria sicurezza, la propria vita, così eccetera, è l'aspetto comunitario più aggregante che possa esistere e quello regge. Quello ancora regge. Non regge quando? Quando ce ne sono pochi che reagiscono così e ce ne sono tanti che se restano indifferenti. Cioè lì c'è quella. Ma lì è un problema di quantità. Però, tornando al discorso della comunità che ha una patologia, da dove eravamo partiti, perché non si riconosce comunità nel lutto, quindi comunità unita e pacificata, rimane questa cosa appunto dell'azione buona, diciamo, semplifico un attimo. Però c'è un'altra patologia che si insinua in questo senso, la ricerca dell'eroe per forza. E anche questo va bene fino a quando ci si stringe tutti attorno a una figura che comunque ha agito il bene, visto che nell'altra puntata dicevamo siamo sempre alla ricerca del bene, però poi come dire, innalzare troppo questa figura per aver per forza bisogno di eroi, altrimenti non ci si riesce a sentire comunità, diventa patologico altrettanto. Certo, perché se noi avessimo, questo è un altro aspetto, in realtà se noi avessimo solo 4-5 eroi, perché l'eroe è una figura elitaria, non si può chiedere a tutti di essere eroi, anche perché non si capirebbe chi sono gli eroi se fossimo tutti eroi, no? L'eroe è una figura elitaria. 4-5 eroi non servirebbero a niente in certe circostanze, no? Il nostro problema è che noi, ecco, questo è un altro meccanismo identitario. La scelta degli eroi è l'innalzare agli altari, alla celebrazione collettiva, idealizzare certe persone, 4, 5, 10, 15 in un'epoca, i santi, gli eroi, eccetera, eccetera. E anche questo aggrega le comunità. Perché, per esempio, noi siamo la terra, come Italia, non solo di tutti questi contrasti, di Nassiria, ma siamo la terra di San Francesco. Con San Francesco si identificano tutti. Quasi. Chi non si identifica si dovrà giustificare. Sì. Il problema è quello, che si dovrà giustificare, perché con San Francesco tendono, è aggregante anche quello. Il problema è che quando devi individuare un buono, idealizzarlo e metterlo sugli altari e farlo celebrare da tutta la comunità, stai dicendo che essere buoni è una cosa di pochi, è una cosa elitaria. In realtà io invece credo che non c'è differenza tra le persone nella correre in soccorso di un altro, no? Anzi, tu non sai mai chi correrà in tuo soccorso quando hai un problema, no? Non è che puoi sperare nell'eroe, magari l'eroe è là che lo stanno celebrando con la corona d'alloro nella testa, no? Il problema è che tu hai bisogno di essere salvato nella vita quotidiana, non dagli eroi. Hai bisogno di essere aiutato e salvato e soccorso tutti i giorni, a scuola, in famiglia, se speriamo negli eroi siamo fottuti, l'ha detto già qualcun altro molto meglio di me. Assolutamente. Ma insomma, stai parlando di piccoli eroismi comunque, no, quotidiani. No, non sto parlando di eroismo, perché il concetto dell'eroismo, anche se noi siamo molto affezionati a questo concetto, anche perché è un concetto che viene dalla cultura classica, la scuola ci hanno pompato molto, così. Il concetto dell'eroismo, appunto, è il concetto di chi fa la cosa giusta disinteressatamente, mettendo a repentaglio la tua vita, sacrificandola per tutti e non solo per sé, che fa la cosa giusta ed è l'unico che la può fare, cioè è uno che emerge dalla massa, no? Io diffido sempre di quelli che emergono dalla massa, perché se poi uno che emerge dalla massa quando tu hai bisogno non c'è e hai bisogno che di uno della massa, come la maggior parte dei casi, sei fregato. Beh, l'eroe fondamentalmente è veramente eroe quando lo è per caso o spassionatamente. Cioè l'eroe è eroe quando si ritrova a fare questa cosa dettata dall'istinto, oppure la fa senza nessun ritorno, perché lo fa per principio e per il bene di una comunità. Quindi direi che, insomma, è ovvio che si cerca sempre di non farne riferimento, perché vuol dire che siamo in emergenza e poi soprattutto esiste l'eroe in questo caso. No, ma soprattutto il problema è che l'eroe fa quello che fa per come è fatto lui, per le sue caratteristiche. Io invece penso a un altro modo per fare il bene, e cioè che chi sta male lo ispira agli altri. Io mentre passo da lì, che non ho nessuna intenzione di fare il bene, c'è un altro che si lamenta, mi colpisce e io mi presto a fargli del bene. Spassionatamente, senza sapere di essere un eroe. Senza sapere di essere un eroe e senza aver bisogno di essere celebrato. Come esattamente si diceva poco fa, certo. La celebrazione, se uno fa l'eroe per la celebrazione, a questo punto non è più un eroe. No, ma ci sono quelli che studiano, però. Poi ci... perché c'è uno, sì, sì, uno sì. Studio per eroi. Okay, perfetto. Ci sono quelli che studiano da eroi, poi ci riescono a diventare eroi, vengono celebrati da eroi. C'è anche quella categoria lì. Ci sono quelli che si specializzano. Non è come fare il calciatore che lo si fa anche per la fama, è un altro discorso. No, è un altro discorso. Di solito l'eroe. Solito un eroe diventa tale dopo che è morto. Esatto, abbiamo dimenticato questo piccolissimo particolare. Infatti, l'eroe deve morire. Esatto. Andiamo in musica? Vuoi andare in musica? Ma eccola qui. Un minutino, poi dopo andiamo in conclusione. My favorite thing di Ronnie Jordan. Bel gesto, tornando in diretta, i due Franceschi da veri santi si sono stretti la mano e scambiato un bacino. Bellissimo. Sì, anche perché prima io l'avevo pesantemente insultato. Ah, sei sempre te che inizio, non avevo dubbi. Comunque, se dovevo scommettere anche 5 centesimi di chi era all'inizio del conflitto, la Francesca. Devo dire che una volta o l'altra metteremo i backstage di questa trasmissione, perché ci sono dei fuori onda molto pittoreschi e coloriti. La trasmissione è fatta fuori onda, praticamente. Esatto. E poi, siccome noi partiamo dal tema e ce lo inventiamo prima di andare in onda, non diciamolo, ovviamente, questo. No, ma questo l'abbiamo sempre detto, partiamo da delle notizie, quindi non è che la puoi preparare, la notizia arriva quando arriva. Certo. E quindi dopo pian pianino riaggiustiamo il tiro mano a mano che andiamo avanti. E allora, prendo spunto dalla telefonata di Tiziano, perché tu, rispondendo a lui, hai detto è chiaro che siamo condizionati da quello che è la comunicazione, da quello che è quello che ci vogliono anche dire, che vogliono sottolineare, può essere a livello politico, a livello sociale, a livello comunicativo. E allora io torno al kamikaze della Emanuela Corda, perché allora tutto sommato aveva ragione Emanuela Corda a dire che il marocchino è anche lui vittima, perché anche lui sicuramente sarà stato condizionato dal suo ambiente, dalla sua informazione, dai luoghi che frequentava e quindi dalla comunità che lo ha formato in un qualche modo o lo ha accompagnato fino a lì. No, ma secondo me, adesso faccio il linguista, faccio un'analisi linguistica di quello che ha detto la Manuela Corda, no? Secondo me lei si è fregata quando ha fatto una cosa che nella comunicazione pubblica non bisogna fare. Ha detto che il kamikaze era non solo carnefice, ma anche vittima. Adesso, come è finita a Veltroni che ha detto ma anche, gli è finita male. Tu, è chiaro, cioè, lui dice... è carnefice e anche vittima. È incomprensibile per il mondo di oggi questo. Nella nostra appunto comunicativamente è assolutamente incomprensibile. Tutti cosa hanno capito? Era vittima, ma si sono scordati che ha detto che era. Ma era anche. Ma come si fa a conciliare logicamente il fatto che uno sia vittima e carnefice contemporaneamente? Nella comunicazione pubblica bisogna scegliere o è vittima o è carnefice. Allora, il problema. Quindi La poveretta è probabilmente influenzata dalle sue letture, dalle sue ideologie, influenzata dalle quello che, di cui è influenzata. Non si è resa conto che per esprimere quel concetto là ci vogliono due o tre libri prima di poterlo esprimere. Non si esprime con una dichiarazione pubblica durante un evento collettivo, perché quella cosa là non può essere compresa. Come fa a comprendere i protagonisti di quel momento, che sono i familiari di quelle vittime, come fanno a comprendere che quello che ha ucciso il loro parente, il loro caro, è anche una vittima? Non possono comprenderlo. Perché? Non perché non sia vero. È verissimo che un giovane kamikaze è uno che è stato indottrinato, che gli hanno detto, l'hanno fatto diventare disumano. Perché un umano non fa saltare in aria altri umani. È disumano quello che ha fatto quello. Ma di chi è la responsabilità di quella cosa disumana? La responsabilità di quella cosa disumana è probabilmente di un processo complesso che sta attorno a quello là che ha fatto saltare. Quindi nel momento in cui noi diciamo questo è vittima e questo è carnefice, come nella vita quotidiana, in tutti i momenti della vita quotidiana in cui vogliamo distinguere vittime e carnefici, lo facciamo per semplificarci la vita, perché in realtà la vittima e il carnefice sono due facce della stessa medaglia, sempre, sempre, anche nelle cose più banali sono così. Noi quello che dovremmo cercare di fare, e in questo la poveretta, come dire, non ha gli strumenti per farlo, quindi io la biasimerei non tanto per quello che ha detto, ma perché ha voluto dire, senza avere gli strumenti, una cosa molto più grande di lei. D'accordo? Allora, quello che dovremmo fare noi è avere una comunicazione personale e pubblica nella quale, attraverso la quale si possa dirsi, parlarsi in modo complicato e dirsi che non è così semplice semplificare, dividere, come diceva Manzoni. Adesso cito uno che è al di là, al di sopra di tutto. Manzoni diceva: il torto alla ragione non possono essere distinti con un taglio così netto, in modo che il torto sia tutto da una parte e la ragione tutta dall'altra. Mai. Un eroe. Mai. Manzoni, un cattolico praticante, Manzoni, il più grande scrittore italiano, la nostra identità nazionale, eccetera, eccetera. Allora, però questo, per poterselo dire, bisogna non schierarsi né dalla parte del carnefice né dalla parte della vittima. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dovremmo fare in modo che non ci siano più né vittime né carnefici. Questo è il problema. Il problema non è che distinguere bene tra vittime e carnefici. Il problema è fare qualcosa perché non ci siano più. Il fatto è che invece noi, con i nostri comportamenti, quando semplifichiamo, quando ci schieriamo, quando vogliamo identificare per forza in modo netto chi ha torto, chi ha ragione, noi stiamo rafforzando quel meccanismo manicheo di separazione tra il bene e il male che ci porterà sempre allo scontro e alla distinzione tra vittima e carnefice. La contrapposizione non va nella direzione chi ha ragione su chi è vittima e carnefice, ma va superata. Ah, siamo intrisi di una bella fetta di cultura anche che ci ha portato verso la distinzione nel mondo tra i buoni e i cattivi. Esatto. Non solo i film western, parlo anche di libri, parlo anche di opere teatrali, eccetera, eccetera. Esatto, noi tutti siamo buoni e cattivi e dobbiamo cercare di parlarci. E facendo qualche capriola per la prossima puntata, cioè tra una settimana, riuscire a mettere a confronto la notizia che ci sarà con l'essere buoni o l'essere cattivi, quale proseguimento ci può essere? Possiamo tenerlo come tema? Ma vediamo, tanto ogni settimana cambiamo. Sì, sì. Certo che lo teniamo. Sì, sì. E allora diamo appuntamento alla prossima settimana, ringraziamo il professore intanto. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti. E anche Tiziano. Certo. Tiziano, certo. Francesco, ciao Tiziano. Ciao Tiziano, io saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ciao Willy, ringraziamo anche Willy. Va. Grazie ragazzi, e lanciamo la sigla. Alla prossima settimana. Oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.